Odissea 2011, in viaggio verso il futuro, di Maurizio Melis. Quando parlo di tempo, signori, mi riferisco alla quarta dimensione. È difficile spiegare la quarta dimensione perché non si vede né si sente. Ecco, se non ti dispiace, rinfrescami la memoria sulle prime tre dimensioni. Ad esempio, se mi sposto in linea retta, avanti e indietro, è una dimensione. E se mi sposto a sinistra e a destra, due dimensioni. E se mi sposto su e giù, tre dimensioni. Sì, ma cos'è la quarta dimensione? Oh, è quella... è pura teoria. Nessuno sa cos'è la quarta dimensione e neanche se esiste. Al contrario, dottore. La quarta dimensione è reale e vera come le altre da lei nominate, che senza la quarta non esisterebbero. Facciamo una premessa. Perché noi trascuriamo la quarta dimensione? Perché non abbiamo libertà di moto in essa. Noi possiamo muoverci nelle altre, su, giù, avanti, di lato, indietro, come ha detto il dottore. Ma di fronte al tempo siamo prigionieri. Buonasera, benvenuti a Odissea 2011. Era una citazione estratta dalla Macchina del Tempo, un romanzo di fantascienza di Herbert George Wells, pubblicato per la prima volta nel 1895, che segna l'inizio della produzione fantascientifica a proposito delle macchine del tempo. E questo è il tema di oggi. Ci domandiamo: è possibile concepire una macchina del tempo? È possibile fare i turisti del tempo? E già qua, insomma, un sospetto ci viene, perché ci aspetteremmo che alcuni importanti avvenimenti avessero assistito torme magari di giapponesi armati di macchina fotografica. Pensiamo, non so, alla crocifissione o a eventi di questo tipo. Quindi ci chiediamo perché non ci sono questi turisti del tempo, e ce lo chiediamo insieme ad Andrea Bernagozzi, che è astronomo e ricercatore all'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Val d'Aosta. Benvenuto, Bernagozzi. Grazie per avermi invitato. Ormai tu sei un nostro ospite fisso praticamente. Allora Andrea, cominciamo con te. Viaggio di sola andata verso il futuro. Questa è una prospettiva assolutamente realistica, a quanto pare. Beh, di sola andata sì. Prima di tutto, tutti noi siamo viaggiatori nello spazio e nel tempo. Viaggiamo nello spazio a bordo del pianeta Terra, che si muove proprio nel cosmo. E viaggiamo verso il futuro naturalmente, man mano proprio che il tempo scorre. Einstein ci ha insegnato, con la teoria della relatività ristretta, che spazio e tempo sono legati tra di loro, e qui già c'è una cosa interessante, perché un effetto di questo legame è il fatto che viaggiando nello spazio a velocità differenti si può percepire il tempo scorrere in modo diverso. Più veloce si corre, più lentamente scorre il tempo. È stato provato sperimentalmente con degli orologi, per esempio tenendo un orologio fermo in un laboratorio e mettendo un altro a bordo di un aeroplano supersonico che girava intorno alla Terra. All'inizio i due orologi erano sincronizzati, battevano la stessa ora, ma dopo il volo quello dell'aeroplano è rimasto un po' indietro. Stiamo parlando di frazioni infinitesime di secondo, e nulla di cui ci si possa accorgere nella vita di tutti i giorni. Però insomma, un pochettino viaggiamo nel futuro anche quando prendiamo l'automobile, anche se naturalmente stiamo parlando appunto di frazioni così infinitesimali che sono impercepibili. Però a velocità elevate questo vuol dire poter viaggiare nel futuro in pratica. Assolutamente sì, ma non è un vero e proprio viaggio nel tempo, perché non stiamo decidendo noi la direzione del tempo. Il tempo va sempre avanti e non possiamo, per esempio, farlo scorrere al contrario. Possiamo fare in modo di invecchiare di meno mentre il tempo scorre intorno a noi più rapidamente. Per poter fare invece i turisti del tempo abbiamo proprio bisogno di poter viaggiare anche nel passato, oppure insomma addio biglietto di andata e ritorno. La prima domanda che dobbiamo farci è quindi: date le nostre conoscenze, c'è qualche legge fisica che vieti esplicitamente i viaggi nel tempo? L'ho chiesto a Stefano Liberati, che è ricercatore della SISSA ed è grande esperto di buchi neri e oggetti esotici di questo tipo. Ascoltiamo. Date le conoscenze attuali, non abbiamo una prova che i viaggi nel tempo siano proibiti. Al contrario, la relatività generale apparentemente ammette soluzioni che prevedono la possibilità di viaggiare nel tempo. Certo è che dal punto di vista della fisica queste soluzioni sono una specie di anatema, perché immediatamente, una volta che esse siano realizzabili, portano a dei paradossi logici. Paradossi, eccola qua la parola chiave. C'è cioè la possibilità di violare, utilizzando il viaggio nel tempo, il rapporto di causa-effetto. Cioè, quella, come dire, regola anche di buon senso per cui la causa precede l'effetto. La filmografia fantascientifica ha fatto molto spesso riferimento, diciamo, alle situazioni paradossali che potrebbero verificarsi se esistesse la possibilità di viaggiare nel tempo, e di paradossi ce ne sono sostanzialmente di due tipi. Iniziamo col primo, che introduciamo così. Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro! D'accordo, bene, sabato è perfetto, posso passare una settimana nel 1955, andare in giro, posso conoscere un po' di gente. Marty, non se ne parla nemmeno, tu non devi uscire da questa casa, tu non devi vedere nessuno e non devi parlare con nessuno. Se lo fai possono esserci serie ripercussioni sugli eventi futuri, tu mi capisci? Sì, certo, vabbè. Marty, hai avuto contatti con nessun altro al di fuori di me? In un certo senso oggi avrei conosciuto i miei genitori. Bontà divina. Fammi vedere ancora la foto di tuo fratello. Proprio come pensavo. Questo prova la mia teoria. Guarda tuo fratello. Non ha più la testa. È come se fosse stata cancellata. Cancellata dall'esistenza. Ricordati che secondo la mia teoria tu hai interferito nel primo incontro dei tuoi genitori. Se non si incontrano, niente matrimonio e niente figli. Ecco perché tuo fratello maggiore sta scomparendo dalla fotografia. E se non trovi un rimedio, toccherà anche a te. Dunque, Andrea, era Ritorno al futuro, un film che davvero non ha bisogno di presentazioni, che ci mette di fronte al cosiddetto paradosso del nonno. Innanzitutto mi è sembrato di fare un viaggio indietro nel tempo, perché io mi ricordo quando ero andato a vedere da adolescente allora questo film al cinema. Il paradosso del nonno è uno dei paradossi più famosi della fantascienza e viene dalla scienza. La domanda che ci si pone è: se fosse un viaggiatore del tempo che dal futuro torna nel passato e uccidessi mio nonno, allora mio nonno non potrebbe più mettere al mondo mio padre, che quindi non metterebbe più al mondo me, e quindi io non sarei mai nato. Ma se non sono nato, come potrei essere tornato indietro nel tempo per uccidere il nonno? È uno di quei giochetti logici che ti fanno venire il mal di testa. E fanno venire infatti il mal di testa a molti fisici che infatti, come dire, non sono così tanto convinti che si possa realmente viaggiare nel tempo, anche perché c'è un secondo tipo di paradosso che può emergere in questo modo, il cosiddetto paradosso di consistenza. Ne troviamo un esempio in un famoso racconto breve, esperimento di Frederick Brown. Ascoltiamo. La prima macchina del tempo, signori, disse con fierezza il professor Johnson presentando l'apparecchio ai due colleghi. Il modello assomigliava in tutto e per tutto a una bilancia pesalettere, con in più due quadranti da orologio fissati sotto il piattello. Il professor Johnson prese un piccolo cubo di metallo. Il nostro oggetto sperimentale, spiegò, lo manderemo 5 minuti nel passato. Mancano 6 minuti alle 3. Alle 3 in punto, posando il cubo sul piattello, azionerò il meccanismo. Di conseguenza, alle 3-5 il cubo sparirà dalla mia mano e comparirà sul piattello, 5 minuti prima di quando ce l'avrò messo. L'altro collega guardò il cubo con aria perplessa e disse: ma supponiamo che lei cambi idea e alle 3 non ce lo metta. Non si avrebbe in questo caso una specie di paradosso? Idea interessante, disse il professor Johnson. Non ci avevo pensato, ma proveremo subito. Dunque ecco, sono le 3 e io non... Non ci fu nessuna specie di paradosso. Il cubo rimase, ma il resto intero dell'universo, professori e tutto, sparì. Allora Andrea, come dobbiamo interpretare questo racconto? Che cosa ci insegna? Ci insegna quella cosa fondamentale che tu hai già ricordato prima, che dietro ogni paradosso sui viaggi temporali c'è questa relazione fisica tra causa e effetto. Ci può essere un effetto senza che ce ne sia stata la causa? Il cubo del racconto può essere saltato nel futuro senza che il professore lo abbia posto nella macchina del tempo? Ovviamente la risposta del buon senso sembra negativa. Non ci può essere un effetto senza causa. Altrimenti, anche in questo caso, come nel paradosso del nonno, il mal di testa è assicurato. Eppure, per farselo passare, molti fisici hanno cercato di trovare delle scappatoie a questo problema di consistenza logica che verrebbe introdotto dalle macchine del tempo. Ascoltiamo Liberati ancora una volta su questo tema. Un approccio è di sposare questi paradossi ed in qualche modo di disinnescarli cambiando la fisica dello spazio e del tempo. Una possibilità in questo senso è descrivere lo spazio e il tempo con strutture matematiche molto più complicate di quelle che noi usiamo normalmente. sono delle strutture chiamate spazi di Hausdorff, che sostanzialmente servono per descrivere la possibilità dello spazio-tempo di biforcarsi in storie diverse. E lì, in quel caso, ogni volta che uno cambia il passato, in realtà va a finire su un altro spazio-tempo e quindi non c'è nessun paradosso. Un'alternativa invece è pensare che questi paradossi non esistono perché in realtà non si può cambiare il passato. Questa si chiama la congettura di Novikov. Funziona in questo modo: immaginate di tornare indietro per cercare di non far conoscere vostra nonna a vostro nonno. Però quello che succederà in realtà è che la vostra azione farà in modo invece che le cose vadano esattamente come erano andate, cioè la vostra azione, anche se voi non lo vorrete, farà in modo che vostro nonno incontri vostra nonna e che poi tutto accada esattamente come doveva accadere. Insomma, Andrea, nonostante tutto, le leggi naturali potrebbero ammettere i viaggi nel tempo, a patto però, insomma, di pagare un prezzo non da poco. Per esempio, accettare dei vincoli sull'esistenza degli universi paralleli, o addirittura di fatto perdere il libero arbitrio, perché quest'ultima spiegazione che ci dava Liberati porta a queste conseguenze. Voi cercate di cambiare il passato, ma non potete riuscirci. E quindi, insomma, visto che qualche possibilità c'è, è venuto il momento di chiederci come si può costruire una macchina del tempo. Odissea 2011, in viaggio verso il futuro. Bentornati da Maurizio Melis a Odissea 2011. In linea con me c'è Andrea Bernagozzi. Stiamo parlando di macchine del tempo e siamo arrivati alla domanda cruciale: come realizzare una macchina del tempo? Un primo indizio lo troviamo in questa sequenza presa da Star Trek, Rotta verso la Terra. Ascoltiamo. Davvero vuoi tentare un viaggio nel tempo su questo rotame? L'abbiamo già fatto. Certo, ti catapulti intorno al sole, prendendo abbastanza velocità, sei nel tempo warp se non ti friggi. Preferiresti non fare nulla? Preferirei un po' di buon senso. Se hai un'idea migliore, tirala fuori. Velocità warp, signor Sulu. Warp 2. Ormai è andata. Warp 4. Warp 6. Warp 8. Scusi, il calore ha raggiunto il massimo. Warp 9. 9.7. 9.8. Dunque, Andrea, in questa sequenza l'astronave deve fare una sorta di velocissimo giro di boa intorno al Sole per acquisire la velocità, insomma, per riuscire in qualche modo a viaggiare nel tempo. E questo suggerimento, questo rapporto che c'è fra la gravità e i viaggi nel tempo, però, non è del tutto campato per aria, vero? Assolutamente no. Abbiamo già citato prima la relatività ristretta di Einstein. Qua si ha a che fare con la formulazione successiva, che si chiama relatività generale, e qui lega la gravità a spazio e tempo, e sono talmente legate che addirittura si può usare la gravità per viaggiare nel tempo. Il primo a proporre un azzeggio di questo genere è stato il matematico olandese Willem Jacob van Stockhuysen, e nel 1937 dimostrò che, girando intorno a un cilindro super denso, infinitamente lungo, in rapida rotazione su se stesso, si poteva tornare al punto di partenza prima ancora di essere partiti. Ovviamente è difficile trovare in giro un cilindro super denso, infinitamente lungo, per poter fare veramente questo esperimento. Ma i satelliti GPS, per esempio, quelli che ruotano intorno alla Terra e ci permettono di dare la nostra posizione, girano veramente intorno alla Terra nello spazio, e l'orologio che hanno a bordo, ogni giro che fanno alla loro altezza, guadagna circa 45 milionesimi di secondo al giorno rispetto a un orologio sulla Terra, a causa del campo gravitazionale terrestre, che è meno intenso ai 20.000 km di altezza dell'orbita del satellite. E questo, insomma, costringe anche a tenere conto di questo ritardo, cioè i computer che fanno i calcoli del GPS tengono conto di questo ritardo, altrimenti ci manderebbero fuori strada, no? Esattamente, sembrano cose arcane, ma in realtà hanno effetti sulla nostra vita quotidiana. Ecco, dunque, Stefano Liberati ci ha spiegato che fondamentalmente ci sono due architetture che rendono possibili le macchine del tempo. Una, in pratica, l'hai già citata tu. Cominciamo con la prima, ascoltiamo. Ma sostanzialmente ci sono due grosse categorie di macchine del tempo. Ci sono macchine del tempo che sono basate sostanzialmente sul mettere spazio-tempi in rotazione, come buchi neri rotanti, I buchi neri rotanti, che sono probabilmente un oggetto molto diffuso nel nostro universo, hanno al loro interno, ben oltre l'orizzonte degli eventi, una regione in cui si pensa che possano esistere linee chiuse di tipo tempo, che sono quelle che sostanzialmente in gergo matematico descrivono la possibilità di avere macchine del tempo. Ci sono molte altre soluzioni con rotazione che creano macchine del tempo. Dunque, Andrea, qui si manifesta questo effetto, questa capacità delle masse, cioè dei corpi pesanti, di trascinare con sé lo spazio-tempo. Ecco, io ho capito una roba di questo genere. Pensate a un motoscafo intrappolato in un gorgo con il motore che va al massimo. Il motoscafo corre sull'acqua, ma anche l'acqua ruota vorticosamente e quindi queste due velocità si sommano. Un fenomeno simile accadrebbe a un astronauta in orbita intorno a uno di questi strani oggetti esotici come i buchi neri, le stelle di neutroni e così via. Andrea, intanto ti chiedo di correggermi se sbaglio, ma poi rispondimi a un'altra domanda. Che cosa succede se ci avviciniamo a uno di questi oggetti? Allora, non ti devo correggere perché l'idea più o meno è questa. Quello che invece bisogna dire è che è molto difficile avvicinarsi a qualcuno di questi oggetti, perché questi campi gravitazionali così intensi, così irritanti, trascinano con loro lo spazio e il tempo, ma anche noi che ci siamo dentro, e quindi alla fine della fiera, avvicinandosi troppo per poter sfruttare gli effetti per fare così i famosi viaggi nel tempo, però noi ci veniamo disintegrati e quindi non è un buon affare. Si parla proprio di spaghettificazione, no? Una sorta di stiramento per cui veniamo ridotti a dei filamenti. C'è però una seconda categoria di macchine del tempo che non dovrebbero, almeno in teoria, ridurre in poltiglia i viaggiatori del tempo. Ascoltate il servizio che ancora una volta inizia con un contributo del nostro Liberati. L'altro tipo di soluzioni sono soluzioni che di solito sono associate a strutture che permettono di viaggiare più veloce della luce, in particolare i warp drive, che ispirati, prendono il loro nome, ispirati proprio da serie di fantascienza, che sono sostanzialmente bolle di spazio piatto che si possono spostare molto velocemente nell'universo, e queste bolle possono viaggiare a più veloce della luce. Mettendone due uno dietro l'altro si può fare in modo di tornare al punto di partenza prima di essere partiti. E poi anche i cosiddetti wormhole. I wormhole sono come dei cunicoli nello spazio-tempo che permettono di avere delle scorciatoie per unire due punti arbitrari dello spazio-tempo. Questi wormhole anch'essi possono dar vita a macchine del tempo qualora il tempo, il modo in cui il tempo scorre alle due bocche del wormhole, di questo cunicolo, sia diverso. Dunque, secondo Paul Davis, che è un fisico noto in tutto il mondo per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologia, sulla meccanica quantistica, ritiene che il miglior modo per realizzare una macchina del tempo sia proprio a partire da un wormhole. Ma ce lo spiega più nel dettaglio questa scheda. Secondo il fisico Paul Davis, è possibile costruire una macchina del tempo a partire da uno dei microscopici wormhole che, in base alla meccanica quantistica, si formano e scompaiono continuamente nel mondo dell'infinitamente piccolo. A questo scopo, Davis ritiene che sarebbe necessaria una macchina composta da quattro dispositivi. Il primo è il collisore, un potente acceleratore di particelle che le fa scontrare creando un plasma caldissimo, decine di trilioni di gradi. Immediatamente, questo plasma dovrebbe essere inviato nel secondo dispositivo, il dispositivo di implosione, dove verrebbe strizzato da potentissimi campi magnetici fino a ridursi a una piccolissima sfera incredibilmente densa. A questo punto dovrebbe crearsi un microscopico tunnel spazio-temporale, il seme da cui far germogliare la macchina del tempo. Un laser abbinato a un sistema di specchi rotanti fungerebbe da dispositivo dilatatore, permettendo di ingrandire il tunnel a piacimento. Infine, un capo del tunnel spazio-temporale verrebbe inviato al quarto dispositivo, il differenziatore, anch'esso un acceleratore di particelle, dove il suo tempo verrebbe rallentato, mentre all'altro capo del tunnel il tempo continuerebbe a scorrere normalmente. Al termine di questo processo, tra le due estremità del tunnel ci sarebbe una certa differenza temporale. Ecco realizzata la macchina del tempo. Odissea 2011. Allora Andrea, ci siamo spinti decisamente avanti rispetto alle domande che ci eravamo fatti all'inizio. Se sia possibile viaggiare nel tempo e se sia possibile concepire una macchina che ci faccia viaggiare nel tempo. E a questo punto siamo in grado di fare qualche riflessione e rispondere quindi alla nostra domanda iniziale, quella più importante. Perché non ci sono turisti del tempo? Come vedremo, questo ci consente anche di sfatare un mito. Ascoltate Liberati. Una cosa interessante che molto spesso nei film di fantascienza non viene considerata è che tutte queste macchine del tempo di cui abbiamo parlato hanno un istante iniziale in cui sono state formate e quindi quello che poi uno può constatare è che è impossibile viaggiare più indietro nel tempo rispetto a quell'istante iniziale, cioè non si può viaggiare indietro nel tempo prima del momento in cui la macchina del tempo ha cominciato ad operare per la prima volta. Insomma, è proprio un principio generale: nessuna macchina del tempo può portarvi indietro nel tempo ad un istante precedente al momento in cui è stata creata. Ed ecco perché, siccome noi di macchine del tempo ancora non ne abbiamo create, correggimi se sbaglio Andrea, non ci sono in giro turisti del tempo. Esattamente, perché per quanto ne sappiamo, fino adesso nessuno ha inventato la macchina del tempo e se questo probabilmente capiterà in futuro vorrà dire che questi turisti dal loro futuro non possono arrivare che in quello che al momento per noi è ancora un domani. Ma c'è un'altra cosa molto interessante, può darsi che la natura ci abbia stupito. Forse all'epoca dei primi istanti di vita del cosmo, subito dopo il Big Bang, c'erano fenomeni così energetici da poter produrre dei cunicoli spazio-temporali naturali. E se un giorno noi scoprissimo questi cunicoli spazio-temporali naturali e potessimo domarli come Pecosville fa con i tornadi, magari potremmo viaggiarci attraverso e arrivare a vedere la vita dell'universo appena nato. Ecco, quindi, però, sarebbe... quanto è probabile che questo accada? Quanto è probabile che Pecosville possa veramente domare il tornado col lasso? Cioè, molto difficile. Direi molto difficile. E naturalmente c'è un'altra spiegazione al fatto che non ci sono in giro, almeno non li vediamo, questi turisti del tempo, cioè il fatto che i viaggi nel tempo siano di fatto impossibili. Sentiamo Liberati a questo proposito. Tutte queste soluzioni, sebbene permesse dalla relatività generale, rientrano in una categoria che potremmo chiamare di spazio-tempo estremi. Nel caso dei buchi neri rotanti di cui abbiamo parlato prima, la parte problematica dove apparentemente possono succedere queste curve chiuse di tipo tempo, queste macchine del tempo, è ben vicina alla singolarità, cioè quel punto all'interno di un buco nero rotante, nel caso di un buco nero rotante questo punto è in realtà un anello, dove sostanzialmente la teoria fallisce di essere predittiva, non sappiamo cosa succede in questi punti. Nel caso dei warp drive e dei wormhole invece le cose sono ancora più esotiche. Inoltre, quando uno va a vedere, va a cercare di sposare la meccanica quantistica con spazio-tempi come i wormhole e i warp drive, sembra esserci un problema. Ad esempio i warp drive sappiamo che tendono a diventare instabili, come diventano più veloci della luce, che è uno degli ingredienti che serve per poi fare una macchina del tempo, mentre i wormhole al momento in cui si sta generando la macchina del tempo sembrano anche loro diventare stabili a causa di effetti quantistici. Insomma Andrea, se uno prova a fare una macchina del tempo gli esplode in mano. Sembra che questa possa essere una soluzione al perché non ci sono turisti del tempo in giro. Ma mi sembra di poter dire, siamo veramente in conclusione, che di fondo noi non sappiamo dire se si può viaggiare nel tempo e che molti fisici pensano che di fatto questo non sia possibile, ma che ci manchino alcune informazioni per arrivare a questa conclusione. Per rispondere a questa domanda mi rifugio nel passato, in una massima famosissima del grande filosofo Sant'Agostino. Sant'Agostino aveva scritto: se qualcuno mi chiede se so che cosa sia il tempo che passa, rispondo che lo so. Se quella stessa persona però mi chiede di spiegarglielo, mi accorgo che non lo so più. Ecco, questo valeva secoli fa ai tempi di Sant'Agostino e vale ancora oggi. E non vale solo per il tempo, ma vale anche per lo spazio, per l'energia, per la materia, per quelle che la fisica ha scoperto essere i mattoni fondamentali dell'universo. Abbiamo capito che sono loro, ma abbiamo ancora molte cose da scoprire per capire esattamente come funzionano e qual è la loro natura. Ci possiamo davvero fermare qui a questo punto. Grazie Andrea Bernagozzi. Grazie a voi. Grazie a tutti gli ascoltatori. Ci sentiamo settimana prossima.